sola dove la natura c'ha mille radici. Terra di storia di uomini, geni romani, africani, spagnoli e di greci. Fatta da muri su duri sapuri, ma puri da chi di cavolo scappare. Qui vuole stare, casa va a stupare, magari politici e pensa magari. Per una terra che vorrebbe stare soltanto nella sua natura, con l'agricoltura, la manifattura, il lavoro matura, l'artura è poi dura, ma la vita è amara se penso io ancora che vorrebbero farci magari un ponte. Qua la mafia mi mette di fronte ad un monte di spazzatura. Quello che voglio vedere è soltanto la gente che vuole nuotare nel mare. Pica minchiate canovo di un moffi, pochi getti chi fa ragamaffi. Sento le voci dialetti dentro quei dialetti che sporgono reti mercati, dove noti che il siciliano accoglie gli immigrati. Perché tu vive in tall'isola, a un dividi su mari, vidi tu sulle tene i radici sole. Io vivo in tall'isola, a un dividi su mari, vidi tu sulle resto con la bici mei. Io vivo in tall'isola, a un dividi su mari, vidi tu sulle tene i radici mei. Io vivo in tall'isola, a un dividi su mari, vidi tu sulle resto con la bici mei. Sicilia, Sicilia, vedi che già usai, mi dai senti miglia, vedi che già usai, l'Italia ti umilia, vedi che già usai, però t'assomiglia, mantiene in fondo vivi i miei pensieri, anche se spesso non concilia i desideri, e anche se sorge su una società retro, non è pupi e carrettino l'isolano, io lo so, però questa è la terra che c'è tradizioni, ma non ha funzioni. Tra le sue mansioni c'è disperazione economica che ora ci danno macello. Quello che però si vede lo stallo, la mafia e la fuga di ogni cervello. Trattala bene questa mia fratello, sta nella terra di Pirandello. È una miniera di fonti energetiche, pratiche alternative. In pratica sono pulite come le mani di quei giudici dentro le stragi. Il luogo di tante leggende e vicende che adesso qua sono commemorative. L'ultima tappa di Garibaldi è per campare strogi di qui. Così si va, dentro quest'isola più che italiana, africana per la sua metà. Si sa, così si sta, dentro quest'isola sola isolata dal resto della umanità. Io vivo in tall'isola, a un dividi su mare, vivo su sulle tenu i radici mei. Io vivo in tall'isola, a un dividi su mare, vivo su sulle resto con gli amici miei. Io vivo in tall'isola, a un dividi su mare, vivo su sulle tenu i radici miei. Io vivo in tall'isola, a un dividi su mare, vivo su sulle resto con gli amici miei. Sicilia, Sicilia, mi dici tu già sai, qua siamo in famiglia, mi dici tu già sai, e chi